планировали, что в этом году... Inflazione, crescita economica, fortune personali e Kosovo. Putin ha risposto a 78 domande per oltre 4 ore e mezza. L'unico momento di tensione quando una giornalista francese gli ha chiesto come mai il governo favorisca un revival di divise, galloni e grandi parate militari. Putin prima l'ha messa sulla storia, richiamando il passato imperiale, poi ha risposto davvero facendo riemergere la vecchia teoria dell'accerchiamento e dicendo con rabbia che il corteggiamento esplicito della NATO all'Ucraina non può lasciare indifferente Mosca. Lo spirito di San Valentino è così franato tra gli stucchi del Cremlino, ma il leader del rilancio del gigante d'Eurasia ha subito ripreso il controllo di sé ed ha concluso dicendo che i missili su Kiev, ma anche su Varsavia e su Praga, saranno puntati solamente se quei paesi ospiteranno basi potenzialmente ostili. Nessuna guerra fredda, ma pronti dunque a difendersi. Così ha detto l'uomo che per 8 anni ha guidato la Russia e che si prepara ad assumere il ruolo di primo ministro nella probabile presidenza del suo delfino Medvedev. Quella del giovane presidente di Gazprom non sarà una presidenza sotto tutela, ha assicurato Putin, che però ha annunciato una nuova rottura della tradizione. Nel suo ufficio di premier non ci sarà il ritratto del presidente Dmitry Medvedev. Converrete, ha detto Putin, che con Dmitry abbiamo un rapporto particolare, assolutamente innegabile. Gigi Donelli, GR24, Il Sole 24 Ore.